gentlemen, may I have your attention, please? This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it. Va ora in onda un programma in lingua italiana. Presented by Andy Mangiarati. www.andreamangiarati.com. Italy, yeah, I love Italy, con Andy Mangiarotti su Radio Miami, I love Italy, yeah, yeah, yeah. Questo è I Love Italy, il vostro rotocalco in lingua italiana. 15 minuti di programma in lingua italiana. La conduzione, come sempre, il vostro Andy Mangiarotti, qua dallo studio dell'Oltrepò Pavese di Double RMI. Cari amici, come state? Tutto bene? Mi auguro di sì. Io tutto ok, l'estate prosegue lentamente, mi sono dato, come spesso dico, alla visione di bellissimi film ancora su pellicola 35 mm, quindi un'estate veramente meraviglioso che ci prospetta qua dall'Italia. Ma non perdiamo tempo, salutiamo tutti gli amici ascoltatori che ci ascoltano dalle parti più disparate dal mondo. Abbiamo sempre buoni rapporti di ricezione dalla Cina, quindi salutiamo gli amici che ci sentono dalla Cina, dalla Russia, dall'Ucraina, dai paesi dell'est Europa, dall'Italia, dagli Stati Uniti ovviamente, dal nord Europa, questi bei paesi dove l'inverno è molto freddo e l'estate direi è molto molto mite, la bellissima Scandinavia. Quindi ringraziamo tutti gli amici che ci ascoltano da lì. E ora vi ricordo i contatti: se anche voi volete farci un rapporto di ricezione d'ascolto, potete scriverci una mail al mio indirizzo andrea@mangiarotti.org, andrea@mangiarotti.org, oppure potete visitare i miei siti andreamangiarotti.com e voiceofitaly.it. Se invece volete ricevere un rapporto di ricezione direttamente da Radio Miami, la radio che si ospita, la Double RMI, potete visitare il loro sito doublermi.net. Lì potete richiedere la vostra cartolina QSL in formato telematico. Se invece preferite ricevere la cartolina in formato cartaceo, ricordate doublermi PO Box 526852 Miami Florida 33152 Stati Uniti d'America. This is the Voice of Italy, broadcast in Italian. More info at voiceofitaly.it. Comunque qua nel jingle vi viene ricordato in lingua inglese il nostro sito, nel caso ci volete scrivere attraverso voiceofitaly.it. Oh, quest'oggi c'è una puntata bellissima. Entriamo nella storia di grandi imprenditori italiani, di grandi nomi dell'imprenditoria made in Italy. Tutti voi conoscete Jobs, Bill Gates, tanto per fare qualche nome, eh? Però anche noi italiani avevamo un personaggio di spessore notevole. Cari ascoltatori, oggi vi vorrei raccontare la straordinaria vita di Adriano Olivetti, un visionario imprenditore e politico italiano del XX secolo che si può dire ha lasciato un'impronta indelebile proprio nel panorama industriale e sociale italiano, ma non solo italiano, direi mondiale. Nel corso della sua carriera praticamente ha reso la sua azienda, la famosissima Olivetti, un'azienda innovativa, al passo col tempo, addirittura guardava al futuro. Negli anni 30 la Olivetti ha rivoluzionato il concetto di macchina da scrivere, introducendo un design molto bello, molto elegante e funzionalità avanzate che le altre macchine, le altre società concorrenti non avevano. Si può dire che la macchina da scrivere Olivetti divennero presto un simbolo di stile e precisione, non solo in Italia, ma anche negli Stati Uniti e un po' in tutta Europa, guadagnandosi una reputazione eccezionale nel settore. Ma il vero capolavoro di Olivetti fu, attenzione, non sono stati, io saluto Jeff White e tutti gli amici americani, ma non sono stati gli americani a creare il primo computer, il suo capolavoro fu il primo computer italiano. Erano gli anni 50 e Olivetti e il suo staff visionario inventarono la ELEA 9003. Questo era un computer all'avanguardia per l'epoca, con capacità di calcolo notevoli, una programmabilità eccezionale. La ELEA 9003 segnò un passo importante nella storia dell'informatica mondiale e appunto questo grande visionario che fu Adriano Olivetti aveva proprio una sede, se non sbaglio, a Pisa, e in questa Pisa, in questo laboratorio, immaginate, di scienziati futuristi, magari si sognava e si immaginava anche il futuro, e perché no, magari si immaginavano i computer attuali. Le macchine Olivetti erano apprezzate per la loro qualità affidabile e design distintivo proprio nel mondo. Oltre a dominare il mercato italiano, però l'Olivetti si espanse a livello internazionale aprendo filiali in diversi paesi, diventando un simbolo d'eccellenza nel settore delle tecnologie per l'ufficio. L'eredità di Adriano Olivetti va oltre il successo commerciale. La sua visione di unire innovazione tecnologica, impegno sociale e progresso umano ha ispirato veramente generazioni di imprenditori e anche pensatori. La Olivetti non era solo un'azienda, ma era un laboratorio di idee, un luogo dove l'arte, la cultura, il benessere dei dipendenti erano considerati parte integrante del processo produttivo. Oggi non abbiamo più i orari, si lavora sabato, domenica, eccetera, non si pensa più al benessere dei dipendenti. Olivetti ci arrivava prima, ci pensava prima. E praticamente un uomo che ha segnato la storia, Adriano Olivetti, con le sue macchine da scrivere, il suo primo computer e soprattutto la sua visione innovativa. La sua eredità continua ad ispirarci ancora oggi, anche se purtroppo non c'è più, è scomparso negli anni 60, però le sue aziende erano un modello veramente nel mondo. Permetteva agli operai, ma anche agli impiegati, di avere turni meno estenuanti, di lavorare il giusto, ma mentre si lavorava si aveva quella serenità, quella pace interiore che permetteva, lui aveva capito, che se il lavoratore, oltre a dargli il lavoro, oltre a dargli il salario, e non caricarlo troppe di ore lavorative, ma doveva avere anche dei momenti di svago. Per questo nelle sue industrie vennero create proprio delle biblioteche dove i dipendenti magari staccavano un attimo, mezz'oretta, si leggevano un libro, poi riprendevano a lavorare, andavano a mangiare, ritornavano al lavoro. Lui aveva pensato anche questa idea di creare proprio un villaggio per i propri dipendenti, dove appunto le mamme e i figli degli operai e degli impiegati avevano la possibilità anche di acquistarsi una casa nei paraggi e di avere tutto nei paraggi, oltre alla fabbrica ma anche tutti i vari servizi, se volete, per certi versi anche quello che fece Silvio Berlusconi con Milano 2, offrire degli appartamenti ma al contempo offrire anche dei servizi per le persone che abitavano queste zone. Veramente quest'oggi è una puntata emozionante, vi confesso, sono molto molto emozionato nel citare Adriano Olivetti, che a mio avviso è stato uno dei più grandi uomini veramente d'affari italiani, ma non fu solo un imprenditore, un uomo d'affari. Per quanto concerne Olivetti, fu anche un eccellente politico e cercò proprio di portare nella politica queste idee di rinnovamento del sociale. Diciamo che era un imprenditore che certamente guardava al profitto, guardava a, come si chiama, alle vendite delle proprie macchine da scrivere, ma però teneva conto anche di una realtà sociale, diciamo così, che oltre il lavoro, oltre al salario, lui andava oltre, aveva questa visione di permettere ai propri dipendenti di ottenere anche dei diritti che spesso magari da altre parti gli erano negati. Un altro ricordo particolare è che moltissime ditte di altri paesi, tipo la Germania, erano solite negli anni 50, anni 60, visitare proprio lo stabilimento di Olivetti per vedere questo suo modo di introdurre al lavoro anche il relax che i dipendenti potevano avere, eccetera eccetera. Quindi fu sicuramente un personaggio tra i più grandi, più grandi che la nostra nazione abbia mai avuto. Ora vi ricordo anche il numero per mandare i vostri messaggi WhatsApp, perché no, potete farlo WhatsApp o Telegram. Studio Pirata oltre Popavese 377 45 63 033 377 45 63 033. I vostri messaggi WhatsApp o Telegram. E potete anche comunicare con Andrea attraverso WhatsApp e anche attraverso, se vi va, Telegram. Poi purtroppo negli anni 60 Olivetti scompare, purtroppo ci lascia, e con lui se ne va anche la sua idea di lavoro. Non viene, diciamo così, confermato l'aiuto del governo italiano per sviluppare questo grandioso computer che lui e il suo staff avevano creato nel laboratorio di Pisa. Purtroppo decidono di abbandonare questa idea. Pensate se si fosse continuato a sperimentare su magari l'informatica già negli anni 60, magari a questo punto dove saremmo arrivati. Però decidono di abbandonare questo progetto e si lanciano completamente sulle macchine da scrivere. Ovviamente, come ben sapete, come è logico immaginare, con l'avvento dei computer, dell'informatica e così via, negli anni 2000 le macchine da scrivere vengono completamente abbandonate dalle industrie e Olivetti subisce una grave crisi economica. Poi torna alla ribalta questi ultimi anni con dei personal computer dal design accattivante e che si rivolgono a una fascia di mercato medio-alta. Questo è quanto. La sua eredità continua a ispirarci ancora oggi? Secondo me sì, perché Google, lo stesso Steve Jobs, Bill Gates, secondo me loro hanno avuto queste, diciamo così, questa ispirazione verso Adriano Olivetti, tutte le persone che cercano di creare qualcosa di innovativo e di creativo. Adesso abbiamo queste start-up e chissà se ci fosse ancora Adriano Olivetti che cosa direbbe in questo mondo sempre più connesso con la rete. Noi però rimaniamo qua sempre su Double R Mine, sulle onde corte con il vostro Andrea. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, io ringrazio Jeff White per il prezioso spazio che ci concede sulle meravigliose frequenze di WRMI, Radio Miami International. Io saluto tutte le persone che ci sentono dall'estero. Grazie ancora per aver ascoltato I Love Italy quest'oggi, puntatona, una bella puntata dedicata a Adriano Olivetti. Grazie ancora. Cedo la linea allo studio centrale di Okeechobee. Ciao, ciao, ciao, ciao, grazie, ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? This is the Voice of Italy, broadcast in Italian.